America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Dan Pfeiffer che parla, Dan Pfeiffer è il capo delle comunicazioni della Casa Bianca di Barack Obama. Devo dire, l'altro giorno ha inviato a noi giornalisti che facciamo parte del White House Press Corps, del gruppo di corrispondenti della Casa Bianca, un'email piuttosto inusuale. Ci ha scritto anticipando un discorso che il presidente Barack Obama pronuncerà mercoledì, definendolo un discorso epocale dal punto di vista economico. Non solo, Pfeiffer faceva anche un link a una serie di altri discorsi importanti dal punto di vista economico del presidente Obama. Insomma, cercava di dare, come dire, un contorno addirittura epico a questo discorso che il presidente pronuncerà a Knox College in Illinois, il suo stato, lo stato dove è stato eletto senatore. E a questo Knox College, tra l'altro, nel 2005, appena eletto senatore, Barack Obama aveva pronunciato proprio lì il suo primo discorso economico. C'è un'idea dunque simbolica e soprattutto un messaggio. Questo discorso sarà molto importante. This is the defining issue of our time. This is a make or break moment for the middle class and for all those who are fighting to get into the middle class. Osawatomie, Kansas, 6 dicembre del 2011. Questo è uno dei discorsi che ha citato Pfeiffer. Osawatomie è una piccola cittadina, il nome è di origine indiana, dove il presidente Teddy Roosevelt pronunciò circa un secolo fa un importante discorso molto populista, un discorso che voleva, come dire, rivolgersi alla classe media americana, voleva criticare Wall Street, certi eccessi del capitalismo. C'era stato appena pochi anni prima, nel 1907, un altro crollo di Wall Street. Roosevelt era uscito fuori dalla scena politica, ma cercava in qualche modo di riconquistare un posto al sole. Ecco, questo è stato un primo aspetto simbolico nel discorso di Osawatomie di Obama, uno spostamento dal centro verso la sinistra. Non soltanto Obama diceva che occorreva rilanciare la classe media, aiutarla, ridargli quella dignità che aveva avuto negli anni 60, negli anni 70, che ha perso proprio a cavallo di questa crisi più recente per via dell'avidità di istituzioni finanziarie. Ma il presidente anche chiedeva nuove tasse, chiedeva delle misure che si allontanavano dal concetto più centrale del mercato che era stato sposato da un suo compagno di partito come Bill Clinton. Un discorso che ha fatto sensazione, mi colpì in modo particolare perché era preparatorio per la campagna elettorale del 2012. Dunque Obama virò marcatamente verso sinistra, cosa che non sembrava molto astuta dal punto di vista politico, visto che la tendenza dovrebbe essere quella di muoversi piuttosto verso il centro. Dunque in questo contesto che domani Barack Obama dovrebbe pronunciare uno dei più importanti discorsi economici della sua amministrazione. The House votes today to delay a political battle over the debt ceiling by increasing the government's borrowing power into May. Debt ceiling è stato un problema, molti si preoccupavano che l'America potesse fallire. Ho letto molti articoli sui nostri giornali quando c'era la polemica sul debt ceiling, cioè sul rinnovo del tetto all'indebitamento, sull'innalzamento del tetto all'indebitamento americano. Vi dicevo, ho letto articoli un paio d'anni fa e poi di nuovo quando il problema si è ripresentato alcuni mesi fa, che l'America poteva fallire, rischiava la bancarotta, rischiava di finire come è finita Detroit nei giorni scorsi, incapace di pagare i propri conti. Ecco, è chiaro che la battaglia politica può portare a certi estremi e soprattutto vista da lontano l'America può confondere l'idea a chi non la segue in modo diretto, però l'impressione che si raccoglieva qua fra gli addetti ai lavori era che comunque l'America non sarebbe mai fallita, il problema era semplicemente un problema politico, come si è poi rivelato, perché l'accordo prima un paio d'anni fa quando la situazione era più critica e poi a maggio è stato trovato, e a questo punto scade di nuovo questo tetto sul debito. A settembre andrà rinegoziato, i repubblicani potrebbero creare di nuovo dei problemi a Barack Obama. Non solo, entro la fine di settembre si dovrebbe in teoria approvare il bilancio per l'anno fiscale 2014, che comincerà il primo di ottobre di quest'anno. L'anno fiscale americano è sfasato, parte appunto il 1° di ottobre. Ci sono dunque due scadenze precise e l'idea è che Obama, in questo suo discorso di domani, non solo affronterà questioni di visione molto ampia, i progressi compiuti dall'economia americana, il recupero dell'occupazione, il recupero di certi valori importanti come aveva promesso un paio d'anni fa proprio per la classe media, ma Obama lancerà il guanto della sfida ai repubblicani proprio su questi due fronti: l'innalzamento del debito, che è imperativo, e un accordo sul bilancio per poter evitare in qualche modo i meccanismi dei tagli automatici che hanno penalizzato finora parecchio l'economia americana. We made a reasonable offer. It's now up to the White House. John Boehner, il presidente della Camera, sarà lui la controparte di Barack Obama e finora Boehner ha voluto fare il duro con il presidente e ha sempre perso, e dunque dovrà fare attenzione, perché in realtà dietro queste due scadenze di settembre Barack Obama guarda lontano, guarda le elezioni del 2014. Il primo martedì di novembre gli americani andranno alle urne per rieleggere l'intera Camera e un terzo del Senato. Obama di fatto domani lancerà un altro guanto di sfida ai repubblicani, quello per riconquistare la maggioranza alla Camera che aveva perduto nei primi anni della sua amministrazione. Dunque questo discorso andrà seguito con attenzione, perché non solo Obama riaffermerà che c'è stato un miglioramento enorme del disavanzo pubblico americano. Pensate che il disavanzo pubblico americano rispetto al PIL era oltre il 10% appena 4 anni fa. Bene, è caduto quest'anno attorno al 4,7%, dovrebbe essere di poco superiore ai 650 miliardi di dollari per la fine dell'anno fiscale, quando nello stesso periodo dell'anno scorso superava i 1090 miliardi di dollari. Dunque il progresso dal punto di vista del disavanzo per l'America è stato straordinario, una lezione in più dal punto di vista concreto di come i conti si possono migliorare davvero, ma grazie alla crescita, non stringendo la cinghia. America 24. Restando sul fronte economico, la Federal Reserve ha deciso di togliere alle banche americane la possibilità di operare e di speculare sul mercato delle materie prime. Devo dire, la decisione è saggia, perché le speculazioni non solo delle banche ma di molte istituzioni finanziarie avevano manipolato i prezzi delle materie prime e creato molta volatilità. E allora che succede? Beh, succede che molte di queste banche, in attesa di questa scadenza di settembre, come vedete settembre è un mese chiave per molti appuntamenti economici americani, stanno cercando o di liquidare questi business oppure di mimetizzarli. Uno sviluppo molto molto interessante, perché pensate che a un certo punto alcuni anni fa il prezzo del petrolio raggiunse $150 al barile, e era un prezzo incredibile. Perché? Perché c'erano i derivati sul petrolio che consentivano l'acquisto di forniture entro certe scadenze, che a quel punto cumulativamente superavano la potenziale produzione di greggio mondiale di almeno 2 volte. Dunque non si capiva come poteva crearsi una bolla di questo genere. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana, ma soprattutto mandatemi i vostri commenti su Twitter, @MarioPlatero, ed eccoci alla canzone del giorno. Elvis Costello e The Roots stanno lavorando insieme a un nuovo disco dal titolo Wise Up Ghost. In attesa dell'uscita il 17 settembre, ieri è stato diffuso il primo single dell'album, ve lo faccio ascoltare. Elvis Costello and The Roots, Will You Walk Us Uptown? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluto e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.